Dunque, innanzitutto ringrazio la provvidenza di averci fatto incontrare un amico. Noi siamo una piccola casa editrice, io, mia moglie e le tre figliole, che però fa tutto il ciclo, cioè nel senso che ha rapporto culturale, cioè e al limite promuove la cultura. Facciamo per esempio convegni sul monachesimo oramai da anni. Quest'anno abbiamo fatto le vie europee dei monaci, un altro anno faremo il monachesimo femminile dall'anno 0 al 1000. E così, come dire, non ci è parso vero quando Padre Giulio 3 anni fa ci ha telefonato perché la Cristofania della Verna non poteva aspettare, bisognava che qualcuno stampasse qualcosa. Noi abbiamo detto di sì. Anche perché sappiamo che quando arrivano queste, come dire, queste telefonate, questi accenni, vuol dire che la famiglia cambia, no? Vuol dire che nuove amicizie si innestano, non è tanto il fatto economico, eccetera, che si mette in movimento, quanto soprattutto la possibilità di incontrare persone nuove. Allora colgo l'occasione di ringraziare Padre Giulio di tutte le volte che è venuto a mangiare con noi attraverso, per correggere le bozze o per altre cose, oppure passando per San Pietro in Cariano, magari doveva andare a Roma, si fermava a Domegliara, l'andavamo a prendere, mangiava insieme a noi, tirava fuori, portava via 3-4 libri o 10 copie, ce le pagava con i suoi soldini che riusciva a racimolare e poi li regalava a tutti. Noi non siamo ancora in pareggio, ma non ha importanza, anche perché sono libri che hanno come dire, un valore anche fra 10 anni. E normalmente non li facciamo morire a costo con le mie mani di ristamparne 100 copie, perché ci siano come testimonianza e come documento. Questa è una prima cosa. Una seconda cosa che volevo dire è questo. A noi interessa dare un piccolissimo contributo proprio all'umanità tutta, perché attraverso ciascuno di noi tutta l'umanità è presente. Perché? Perché è in un momento, come dire, di svolta epocale. E questa svolta ci è data soprattutto dal fatto che il rapporto con la terra è universalmente mutato rispetto ai tempi di Abramo fino ad oggi. E per questo tipo di rapporto, per questo tipo di, come dire, di cambiamento radicale che tende anche a cambiare l'umanità tutta, c'è bisogno realmente di grossi supporti spirituali e culturali, che nessuna storia, in un certo senso, può dire di averli tutti per questo cambiamento. Per cui, come casa editrice, nel nostro piccolo siamo quasi culturalmente a mendicare presso tutti coloro che hanno un contributo spirituale e culturale da dare. E Padre Giulio, in un certo senso, ci ha messo in contatto con una cultura che ha qualcosa da dare, ecco, che è la cultura musulmana, la cultura islamica. Grazie anche di questo. Ecco, se poi qualcuno vuole acquistare, ci sono qua i libri. Grazie a voi. Bene.